Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del nostro spread, non tanto e non solo perché sia risalito, non è questo il punto, ma perché oggi si è realizzato il, tra virgolette, temuto sorpasso della Spagna sull'Italia, ossia, ripetiamo, per mesi e anche storicamente lo spread italiano era migliore di quello spagnolo di 140 o 50 punti, tranne che a fine 2011, quando si arrivò poi alle dimissioni del governo Berlusconi, quando il nostro spread superò quello spagnolo come punti. Da lì in avanti si era riposizionato a un livello comunque migliore di quello iberico. E invece oggi, già da giorni ormai erano allineati, erano quasi identici, oggi c'è stato il superamento. In realtà molti operatori sottolineano che sono le incertezze della situazione politica in Italia a fare avvicinare i due spread. C'è stato comunque un miglioramento della situazione economica in Spagna, dati sul PIL alla mano, la Spagna sta uscendo dalla recessione, ha fatto un meno 0,1% nel secondo trimestre. Il combinato disposto di un miglioramento delle condizioni spagnole e invece un'incertezza che resta in Italia sulla situazione politica porta oggi il nostro spread a essere a 248 punti, quello spagnolo quello italiano a 250 punti, quello spagnolo a 249 punti. In realtà il rendimento dei BTP a 10 anni, dei bonus a 10 anni, è equivalente al 4,49%. Nel frattempo di questo parleremo però anche di quello che sta capitando in borsa al Monte dei Paschi, perché dopo la richiesta arrivata per via ufficiale dal commissario europeo Almunia, il Monte dei Paschi dovrà aumentare il suo capitale di 2 miliardi e mezzo, che è pari alla capitalizzazione di borsa di adesso, cioè raddoppiare il suo capitale, se vorrà ricevere gli aiuti di Stato italiani sotto forma di Monti Bond, i 4 miliardi. Il titolo perde parecchio, come era immaginabile, meno 4,40%. C'è però più di un osservatore che ha detto, ma insomma, come mai la Bruxelles tratta l'Italia e il Monte dei Paschi come se fossimo un paese commissariato? Cioè, voglio dire, di solito non è Bruxelles a dover dire a una banca di un paese che cosa deve fare. C'è una trattativa con il governo italiano, c'è il governo italiano che poi mette i soldi, sono gli italiani che mettono questi soldi, non li mettono gli europei. Che io ricordi, non è avvenuto così nei casi, per esempio, di banche tedesche o di banche franco-belga, la Dexia, o anche nella gestione del colosso bancario spagnolo Bankia, che lì sì, chiese l'aiuto europeo, ma nel caso tedesco, se c'è un problema di una banca che viene risolto all'interno del paese, è chiaro che Bruxelles vigila sul fatto che non siano aiuti di Stato, ma parla con il governo di quel paese, non va a parlare direttamente con il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi dicendo dovete fare l'aumento di capitale. Ripeto, anche perché questi soldi li mettono gli italiani, non li mettono gli europei. A mio avviso c'è stato un po' di trattamento di sfavore nei confronti dell'Italia. Il governo dovrebbe prenderne atto e magari anche impuntarsi su questo, se non fosse impegnato in altre vicende politiche, forse, perché non è possibile che adesso va bene tutto, da Bruxelles venga detto a una banca italiana che cosa fare e di quanto aumentare il capitale, con conseguenze immediate poi anche in borsa. Di questo parleremo anche in apertura però del tema che abbiamo lanciato ieri, la spesa degli enti locali, ossia come tagliare e ridurre la spesa della pubblica amministrazione complessivamente 840 miliardi, ma soprattutto, attenzione, io non ce l'ho, oggi ho ricevuto numerose mail tra ieri e oggi, non ce l'ho con le regioni, dico semplicemente che il dato è inequivocabile: dal 2001 al 2010 la spesa delle regioni è aumentata è passata da 100 miliardi a 150 miliardi. con un aumento, per essere proprio precisi, del 40%. Sono le spese correnti, non le spese per investimenti, non le spese per manutenzione delle strade. Dal 2001 al 2011 siamo arrivati a 151 miliardi. Se vi sembra che possa reggere un sistema in cui si aggiungono 50 miliardi in 10 anni, 5 miliardi in più all'anno per mantenere le nostre regioni, perché di questo stiamo parlando, spese per spese correnti, tra l'altro, se proprio devo dire a tutto e poi ne parleremo, la cosa che fa impressione è che le spese per il personale sono aumentate del 31%, ormai complessivamente pari a 6 miliardi, i trasferimenti alle ASL sono aumentati del 47%, l'acquisto di beni e servizi è aumentato per mantenere le regioni del 28%. Che cosa è calato di brutto? Beh, i trasferimenti alle imprese, che forse era l'unica cosa che sarebbe dovuto aumentare, meno 28%. Allora, insomma, dalla fotografia è molto chiaro, poi ci sono i trasferimenti alle province, i trasferimenti ai comuni, i trasferimenti alle comunità montane, ma insomma si tagliano, si riducono le spese per, complessivamente per le imprese, gli investimenti delle regioni ammontano a 17 miliardi, le spese per mantenerle ammontano a 150 miliardi. Mi sembra che non ci sia molto da aggiungere, cercheremo però di capire cosa fanno negli altri paesi, quanto costano poi per esempio le spese per i consigli e le giunte regionali, quanto sono gli stipendi netti dei vari presidenti di giunta, presidente di consiglio, vicepresidente di giunta, vicepresidente del consiglio, assessore, presidente di commissione, capogruppo, consigliere, ma insomma, per farla breve, ancora un consigliere regionale in Lombardia prende 12.000 euro lordi al mese tra indennità e rimborsi, in Puglia 10.400 euro, in Sicilia 10.000 euro, in Piemonte 10.000 euro, in Lazio 7.000 euro, in Molise 10.000 euro e via così. Un po' tanto, soprattutto in aumento. E poi la borsa, al di là del Monte dei Paschi oggi, che adesso perde il 4,5%, bene Salvatore Ferragamo più 3,80, bene Pirelli più 3,5%, Enel più 1,70, Intesa San Paolo più 1,60, come Tenaris, l'1,30 lo guadagna Autogrill, l'1,20 Campari, lo 0,90 Ansaldo, fronte opposto Fiat Industrial meno 2,90, Popolare Emilia Romagna meno 2,30, Diassori meno 1,70, come Enel Green Power, Mediobanca meno 1,30, Snam meno 1,1, come Saipem l'1% lo perde il Banco Popolare. Le altre borse vanno meglio perché Milano perde lo 0,14%, guadagna solo lo 0,14%, bene invece Parigi più 1,80, Francoforte più 2,1, Londra più 0,90 e l'America che in questo momento guadagna l'1,92%. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666 e poi come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda le notizie internazionali, buone le notizie che arrivano dalla Cina, gli indicatori macroeconomici infatti starebbero a dimostrare che il piano di misure mirate per rilanciare l'economia cinese sta funzionando, la produzione industriale infatti è cresciuta del 10,5% ad agosto contro il 9,7% di luglio, un dato più alto dell'atteso 9,9%. Per cento bene anche le vendite al dettaglio in Cina, i consumi che interessano anche le nostre imprese che li esportano, più 13,5%. Dentro il Dow Jones sono entrati oggi Goldman Sachs, Visa e Nike, o Nike come la chiamano gli americani. Tra l'altro sono uscite Hewlett Packard, Bank of America e Alcoa. JP Morgan ha avuto nel frattempo il via libera dall'Unione Europea all'acquisizione della Findus. La Findus è il colosso mondiale del surgelato ed è di proprietà di un fondo britannico, Lion Capital. JP Morgan è il colosso invece finanziario dei servizi, colosso americano dei servizi finanziari. Ancora dall'America, sostanzialmente l'autorità americana è uscita dalla Citigroup attraverso una transazione per 2 miliardi e 420 milioni di dollari di obbligazioni emesse. Di fatto questo sancisce l'uscita del governo americano dalla banca che fu salvata durante la crisi. Il completo disimpegno da Citigroup arriva a quasi 5 anni esatti dal fallimento di Lehman Brothers, che risale allo scorso 15 settembre. Passiamo all'Italia. Le prospettive dell'economia italiana migliorano, ma per il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al Council of Councils Regional Conference, insomma, i rischi a ribasso di questo scenario sono accresciuti dalle preoccupazioni degli investitori per la possibile instabilità politica. Tradotto, avremo un po' di ripresa anche noi se non ce la bruciamo con degli autogol, e quindi se l'instabilità politica non farà svanire la possibilità per l'Italia di agganciarsi alla ripresa che ci sarà finalmente anche nel resto d'Europa. E comunque Visco ha confermato che i recenti indicatori mostrano un graduale miglioramento, che il calo della produzione industriale dovrebbe fermarsi nei prossimi mesi, e che appunto si fermerà il calo. Da lì a parlare di ripresa vera e propria è un po' diverso, anche perché nel secondo trimestre del 2013 il nostro PIL è calato del 2% rispetto al secondo trimestre del 2012 e dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Variazioni negative in tutti i settori, ma dopo diversi trimestri la caduta dell'industria si è attenuata. Meno 2,5% rispetto all'anno prima, l'agricoltura meno 2,2%, anzi meno 2,6%, le costruzioni vanno ancora molto male, meno 7%, i servizi meno 1,2%, sempre rispetto al secondo trimestre del 2012. Che la recessione sia agli sgoccioli lo dice oggi anche la Confesercenti nel rapporto di previsioni macroeconomiche. Mentre sempre la Confesercenti afferma che con prospettive economiche così fragili l'aumento dell'aliquota IVA al 22% sarebbe un clamoroso autogol. E che i segnali timidi, alcuni segnali di ripresa, ma qua dobbiamo aggrapparci a tutto, anche ai segnali di ripresa, si vedono, lo ha dichiarato anche l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, e anche vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. I consumi elettrici delle imprese infatti non scendono, e lo ha raccontato e spiegato molto bene al nostro Simone Spezia a maggio nel forum Lombrosetti di Cernobbio. I consumi elettrici non stanno riprendendo, ma non stanno più cadendo come un tempo. Credo si sia fermata l'emorragia in qualche misura. In questo momento non vediamo ancora la crescita, ma quantomeno abbiamo bloccato la decrescita, e mi sembra un segnale positivo. È cambiato il mix, evidentemente gran parte del consumo industriale che si è perso nel tempo non si è ancora recuperato, perché sono ancora aziende ferme o aziende che sono state chiuse, e aziende che hanno cassa integrazione, per cui una parte del consumo è venuto meno. Aggiustato tutto per l'effetto delle condizioni climatiche e dei giorni di lavoro, comunque noi pensiamo che in questo momento la caduta sia intorno al 3-4-3-5% rispetto all'anno precedente. Però questo si aggiunge a tanti altri anni che hanno visto cadute, per cui oggi siamo al livello dei consumi che eravamo 10 anni fa sostanzialmente. E questa è una dimostrazione, da una parte, del fatto che abbiamo recuperato efficienza, e questo è innegabile che si è fatto, dall'altra che in effetti la caduta della domanda industriale, la caduta della domanda interna ha prodotto il risultato di un minore consumo di elettricità. Ci sono degli indici di previsione dell'andamento dell'economia e anche l'andamento dell'esportazione, che in questo momento sta sicuramente dando buoni risultati, che ci mostrano che l'economia può, dal punto di vista della manifattura e anche dei servizi, trovare un momento di ripartenza, diciamo, sia pure modesta, comunque di un segno positivo nell'ultimo trimestre di quest'anno. Se non ci sono cambiamenti drammatici né a livello politico né a livello di situazione internazionale, questo è quello che è naturale aspettarsi. E però tra i costi che le imprese italiane devono sostenere più alti rispetto alla media europea c'è sicuramente quello dell'elettricità. Sappiamo che in bolletta, nonostante un calo dell'elettricità in senso stretto, noi continuiamo a pagare moltissimo i contributi per le fonti rinnovabili. Sempre su questo è intervenuto Fulvio Conti su qualche proposta anche per eliminare un uso distorto alle rinnovabili, diciamocela tutta. Sono stati soldi dati in maniera tra virgolette un po' leggera. Io sono assolutamente a favore del fotovoltaico, ma insomma poi caricarlo in bolletta in quel modo, tant'è che poi la bolletta non scende anche quando scendono i costi dell'elettricità, forse è stato un po' eccessivo. Credo ci sia una proposta per attutire in qualche modo la distorsione, con l'idea che sta avanzando di allungare il tempo per cui certi incentivi vengono dati ad esempio alle rinnovabili. Noi stiamo viaggiando in questo momento con un costo di 13 miliardi di euro, non siamo l'unico paese che ha usato questo sistema, la Spagna ha un costo in più di 10 miliardi di euro per finanziare con questi incentivi tecnologie rinnovabili, in Italia sono circa 12-17, arriviamo probabilmente oltre i 13 nel 2014, in Germania stiamo a 20 miliardi, 22 netti, 20 netti, 22 lordi, sempre con la stessa logica di aver usato incentivi in maniera distorta, finanziando legittimamente, per carità, la crescita di tecnologie cosiddette rinnovabili. L'uso distorto di questi incentivi chiaramente ha prodotto questo grande costo in più che tutti i cittadini italiani pagano. In Germania i 20 miliardi li fanno pagare alle famiglie, esentano le industrie, fa una sorta di aiuto di Stato implicito alle industrie tedesche. Il paradosso, anche come quello del costo del lavoro, produce un maggior costo dell'energia per tutti noi cittadini e un minor profitto per gli operatori industriali che hanno investito miliardi per fare questo mestiere. E questo potrebbe essere ridotto, dico io, con questa proposta di allungare, per esempio, gli incentivi che sono nella somma uguale distribuiti su 20 anni, dare la stessa somma su 30 anni, diminuire il gravame annuale che incide sulla componente cosiddetta A3 della bolletta elettrica e ridurre conseguentemente il costo. Così appunto il numero uno dell'Enel, Fulvio Conti. Ancora due notizie, poi passiamo al tema delle regioni, dei costi delle regioni, di Monte dei Paschi, ripeto, parleremo più avanti nella seconda ora del programma. È morto oggi Steno Marcegaglia, fondatore e presidente dell'omonimo gruppo dell'acciaio a Milano, ricoverato per una caduta, era il padre dell'ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, a cui vanno comunque le nostre condoglianze. Aveva 83 anni, fondatore, partendo da zero, del gruppo, che è un colosso nel mondo dell'acciaio. Un piccolo ricordo dell'imprenditore in questo estratto di un'intervista che la nostra Anna Marino realizzò con Steno Marcegaglia nel 2006. Mi ricordo che andavo in bicicletta a Mantova e a mezzogiorno, allora la scuola era mattino e pomeriggio, anziché andare al ristorante mangiavo, come dicevo io, pane e panchina. Mi portavo da casa un panino e d'estate, quando c'era caldo, ma ero sulle panchine, quando c'era freddo mangiavo, restavo a scuola mentre gli altri facevano la ricreazione dall'una alle tre, io stavo lì, mi mangiavo il panino. Ma non ho mai invidiato nessuno, perché ero consapevole che prima o poi avrei sfondato, mi sarei dato da fare. Ero un ambizioso, era uno che io ho sempre creduto che sarei diventato qualcuno. I have a dream. That one day on the Red Hill in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Sì, lo so, fa un po' impressione parlare adesso dei costi delle regioni lievitati soprattutto per il mantenimento delle regioni stesse, quando poi uno ascolta, ed è bellissima, e vi invito anche a riascoltare sul nostro sito l'intervista a Steno Marcegaglia, non perché se si stanno macigaglia, ma perché appartiene a una generazione di imprenditori, appunto, che rinunciava al pranzo per mangiarsi il panino, e chissà perché quelli hanno fatto l'Italia. A mio avviso qua, ma non voglio farvi il populista, di pause pranzo rinunciate nelle regioni italiane se ne vedono gran poche, ma si vedono tanti pranzi. E adesso partiamo, vai. Da dove partiamo? Da dove partiamo? Allora, dalla regione Friuli Venezia Giulia, che mi ha scritto: guardi che lei sbaglia, non sono stati spesi 22.000 euro per avvistatori di neve, per un avvistatore solo, ma per 10 avvistatori di neve abbiamo speso 24.000 euro. Va bene? Peggio mi sento, forse. No. Comunque, poi qualcuno mi spiegherà cosa sono sti cavolo di avvistatori di neve per cui uno spende 24.000 euro per avvistare la neve. Non lo so, ma c'è la forestale, io non capisco cosa sia l'avvistatore di neve, ma mi scrive pure l'ufficio stampa della regione Friuli Venezia Giulia lamentandosi che abbiamo detto uno solo, invece erano 10. E va bene, la rettifica è qua. Ieri ricordavamo che a fronte di 145 miliardi di spese correnti, qualcuno mi chiede cosa sono le spese correnti. Sono quelle che servono, diciamo, per mantenere la macchina tutti i giorni e non per fare investimenti, stipendi, costo del personale, acquisizione di beni e servizi, cancelleria, bollette, affitti, tutto il resto. Sono aumentate le spese delle regioni italiane del 49%, se riuscissi a leggere bene il dato, a maledizione anche se fotocopie, 49,3%, a fronte di invece una spesa per investimenti, quella sì, che è di soli 17 miliardi 951 milioni. Allora, il nostro sogno, live dream, è perché vorremmo vedere un paese immaginario in cui costano le regioni 17 miliardi e investono le regioni 145 miliardi, e non l'opposto. Ma dove li hanno spesi sti soldi le regioni, visto che molti si sono lamentati? Allora, dal 2001 al 2011, spesa alla voce organi istituzionali più 51%. Arrivata a 848 milioni. Spesa per il personale più 31% a 6 miliardi 280 milioni. Spesa per il personale. Acquisto di beni e servizi. Non è che nel 2001 le regioni non avessero la gomma, la cancelleria, l'elettricità, gli affitti. Eppure più 28%. Poi ci sono i trasferimenti ai comuni, alle province, e vabbè, quelli sono dovuti per altri incarichi. Poi però ci sono i trasferimenti alle ASL, ossia il costo della sanità regionale. Ora, io sfido qualcuno di voi a dirmi che siamo curati così meglio nel 2011 rispetto al 2001. Sapete quanto è aumentata la spesa per le ASL? Del 47%, cioè paghiamo dopo, alla faccia del federalismo, alla faccia dei controlli, dopo 10 anni più 47% la spesa sanitaria in questo paese, a 109 miliardi, 110 miliardi. Cos'è che è calato? Beh, per esempio i trasferimenti alle imprese, perché giustamente le imprese stanno bene, non c'è nessuna crisi, e giustamente le regioni hanno tagliato del 28% complessivamente i trasferimenti alle imprese, pari a 2 miliardi 482 milioni. Poi ne parliamo con Gianni Trovati e con chi ha fatto la spending review per la Gran Bretagna, però due o tre chicche me ne fate dare, visto che ho dovuto rettificare sulla regione Friuli Venezia Giulia. Alcuni dicevano, ma ha scritto un ascoltatore, beh, insomma 10.000 euro lordi per essere un consigliere regionale non mi sembra tanto, sono 6.000 euro netti e le sembra poco. Ma lei dove vive? Cioè, adesso io non dico che la politica si deve fare per passione, ma 6.000 euro netti sono pochi per fare consigliere regionale? Sì, poi c'è chi scrive anche a te, Barisoni ti pagano per dire cavolate. Vabbè, ho capito, ma almeno mi paga un privato, sarà un problema delle sole 24 ore, non un problema dei cittadini italiani e dell'addizionale regionale IRPEF. Cerchi ogni tanto di connettersi quando scrive queste cose, nessuno sta discutendo del privato, questi sono soldi che paghiamo noi con le addizionali regionali, ok? Allora, andiamo un po' con degli esempi. Perché dici, come mai costano così tanto gli stipendi dei... sapete quanto le spese delle giunta e dei consigli regionali? In Piemonte costa 74 milioni gestire la giunta e il consiglio regionale. E in Lombardia 67 milioni. In Molise 36 milioni. In Toscana 73 milioni. In Sicilia 160 milioni. In Sardegna 100 milioni all'anno. In Lazio 140 milioni all'anno. Solo solo la spesa per far funzionare la giunta e il consiglio regionale, solo questo, Vabbè, volete qualche chicca? Vediamo i benefit. Quanti dipendenti ha la Regione Sicilia? Gara. Quanti dipendenti ha la Regione Sicilia? Questo non ve lo dico. Vediamo se qualcuno indovina. 349-238-6666 senza usare Wikipedia, senza usare internet. Quanti dipendenti ha la Regione Sicilia? Quello che è importante è che i dipendenti e i familiari hanno un insieme di bonus, dall'aiuto per la nascita di un bimbo ai finanziamenti per associazioni costitutive dei lavoratori dell'ente che svolgono attività culturali. Sostanzialmente sono garantiti assegni di nunzialità, natalità e lutto. Una volta si diceva che il welfare andava dalla culla alla bara. Beh, ci siamo, welfare perfetto in Sicilia. 150 euro nei primi due casi, 1000 euro nell'ultimo. Nulla di male, è anche giusto che uno Stato si occupi di natalità, del lutto e della nunzialità. Però perché solo i dipendenti della Regione Sicilia e magari accanto ai tassi di disoccupazione al 60%? Beh. Poi c'è il sussidio per le spese di gestione alle associazioni costituite dai dipendenti della regione, cioè uno fa un'associazione bocciofila di Palermo e riceve 2300 euro e un altro per coprire i costi dei soggiorni in località climatiche, marine e montane degli associati, quindi dell'associazione bocciofila, dipendenti della regione Sicilia. Bocciofila, hai anche il bonus se devi andare in località climatiche, marine e montane, difficilmente uno va, capito, in periferia. 300 euro a testa e buttali via. I consiglieri regionali liguri che si vedono rimborsare anche 2,30 euro per chilometro, basta che abitino 80 km da Genova. Ogni mese l'indennizzo forfettario per la partecipazione alle riunioni è di 4.681 euro. Vabbè. Però la cosa interessante è che anche chi risiede a Genova viene ricompensato per andare in giunta. 2.925 euro per raggiungere la sede del consiglio nel centro città. Ma i mezzi no, mai. E poi c'è la Calabria, io qua voglio un applauso, poi vado col meteo, perché c'è un metodo di calcolo in Calabria dove è previsto un forfè per un numero presunto di viaggi di andata e ritorno verso l'assemblea a Reggio Calabria. È stato così quantificato: 15 giorni di lavoro al mese da indennizzare perché vai su e giù. E dice, vabbè, 15 giorni di lavoro al mese ci stanno. Eh no. Perché in tutto il 2011 il Consiglio regionale Calabro si è riunito in tutto l'anno 14 volte. Allora, perché hai 15 giorni di rimborsi al mese se ti riunisci una volta al mese? I misteri, compreso agosto, il rimborso. I partecipanti che vivono più lontani dal capoluogo hanno avuto un rimborso fino a 5.000 euro al mese, ma ti paghi l'autista, l'elicottero, l'aereo, il charter con 5.000 euro al mese dovendo vederti una volta solo al mese. Rimaneva però escluso chi risiede dove ha sede l'assemblea. E cavolo, tu stai a Reggio Calabria, però comunque ci devi andare a fare quei 500-600 metri, chilometro. Da qui una piccola leggina: anche ai politici che risiedono a Reggio Calabria vengono ricompensati gli spostamenti. 15 viaggi andata e ritorno per Catanzaro, dove c'è la giunta, capito? 5.000 chilometri rimborsati ogni mese! Potrei continuare a farvi divertire con le sedi regionali italiane a Bruxelles. Fondamentale che una regione sia Bruxelles. Sono 21 sedi con 15 uffici diversi e ne abbiamo per tutti oggi. La regione Emilia-Romagna, 250 metri quadri di sede a Bruxelles, 94.000 euro di affitto l'anno, una sala riunioni, però in condivisione con altre tre regioni europee. 250 metri quadri, ma che devi fare la regione Emilia-Romagna a Bruxelles? E poi la Calabria che ha fatto un contratto per pagare la sua sede a Bruxelles 210.000 euro di affitto l'anno, 210.000 euro di affitto l'anno. Poi si è accorta che produceva poco, ha chiuso la sede, ma deve pagare l'affitto fino al 2015. Giusto, a questo punto potete tenerla aperta, almeno qualcuno andava ogni tanto, per cui pagherà per altri tre anni sui 600.000 euro per una sede chiusa. Adesso mi prendo una boccetta di Malox, lancio il meteo e la pubblicità e poi con Gianni Trovati e con il direttore generale di Bravo Solution, cioè chi va a fare la spending review in Gran Bretagna, cerchiamo di capire come tutti questi costi si ripercuotono sui cittadini con l'addizionale IRPEF e dall'altro cosa si fa all'estero. Io abbiamo lanciato questa campagna da domenica su Sole 24 Ore, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, che chiedeva a Enrico Letta: liberi l'Italia dal ricatto della burocrazia. Ieri ce ne ha parlato in diretta e noi continuiamo. Non me ne frega niente se c'è qualcuno che dice che dovrei andare a fare altro o mi insulta con i epiteti irripetibili. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Di nuovo in diretta per parlare della spesa delle regioni. Potrei continuare con tutto, l'abbiamo raccontata per anni. Il Museo di Arte Contemporanea Riso a Palermo non ha un quadro, ha le sale deserte, anche perché senza quadri uno che cavolo ci va a fare, però ha 22 custodi assunti che vigilano su 2000 metri quadri di nulla, nulla. I 30 camminatori della regione Sicilia ce li siamo dimenticati. Allora ringrazio per averci raggiunto, come anticipavo, in collegamento da un lato Ezio Melzi, che è il direttore generale di Bravo Solutions. Buonasera dottor Melzi, bentornato. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Grazie anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, quanto ci costa poi tutto questo? Perché sembra una cosa folcloristica, che belle risate, in termini di addizionali IRPEF regionali e locali in generale. Sì, esatto, il punto, buonasera a tutti, è proprio che questo insieme di costi fioriti senza controllo alcuno, perché poi è questo il punto vero, hanno ingigantito il fisco regionale, il fisco locale, il fisco dei vari livelli di governo. Allora, le addizionali regionali, il fisco regionale, cioè addizionale IRPEF e IRAP, si è moltiplicato di 9 volte in 40 anni. C'è stato naturalmente in mezzo la riforma del federalismo, la riforma del titolo quinto del 2001, che al contrario di tutti i federalismi del mondo ha aumentato le entrate territoriali, ma non ha diminuito le entrate statali, perché mentre diventavamo da Stato centralizzato a Stato federale, quindi con i compiti sul territorio, le entrate erariali sono aumentate nei 10 anni del federalismo di 110 miliardi di euro. Ma questo è naturale, perché in realtà non c'è una divisione, per cui aumentano l'addizionale IRPEF, lo sappiamo, vale 15 miliardi di euro quest'anno, ma crescerà ulteriormente l'anno prossimo. Aumenta l'IRAP, vale oltre 30 miliardi di euro all'anno, ma aumenta anche la quota di fisco statale che serve a finanziare le regioni. Le regioni compartecipano al gettito dell'IVA, cioè si dividono con lo Stato il gettito dell'IVA. È un meccanismo nato nel 2000 con Bassanini. Nel 2000 si prendevano il 27,5% del gettito annuale, nel 2013 si prendono il 53% contro il 27,5%, e quindi in questo fiorire disordinato di costi non c'è possibilità per nessuno dei due livelli di governo di abbassare la pressione fiscale. Crescono quelle del comune, crescono quelle delle regioni e crescono anche quelle dello Stato. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Eccolo lì il nostro sogno. Allora, si può fare un federalismo in cui invece che le tasse andare sul territorio e restare magari sul territorio, aumentano su base centrale e su base territoriale? Nessuno c'era mai riuscito, ma il nostro paese sì. Ecco perché chi scrive ma di cosa vi lamentate? No, io mi lamento perché tutte queste sono pressioni fiscali che poi vanno a danneggiare, oltre che i consumi, il potere d'acquisto, anche quella che è la competitività delle imprese. Dopo il traffico, io vorrei sapere una cosa da Ezio Melzi, e cioè, insomma, qui adesso il problema qual è? Perché non posso immaginare, certo, tutti questi costi sono aumentati, lo dico in maniera molto chiara, perché aumentano i costi di gestione delle regioni e degli enti locali. Non ci sono dubbi su questo, ok? Non ci sono dubbi. Però già Gianni Trovati faceva e metteva in evidenza che c'è anche una duplicità di ruoli, funzioni, un'incapacità di chiudere un ufficio centrale e lasciarne aperto solo uno regionale. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of... Allora, Ezio Melzi, il tema è serissimo, il tema riguarda i conti pubblici, riguarda questa bestia da 840 miliardi che non riusciamo a ridurre o indirizzare meglio, che si chiama spesa pubblica, riguarda il fatto che abbiamo i costi più alti pro capite della spesa per la pubblica amministrazione, ma abbiamo gli stipendi tra i più bassi per il carabiniere, il poliziotto, l'infermiere, l'insegnante, perché gli stipendi più alti li hanno i dirigenti, i capi dipartimento, e lì si blocca ogni riforma, lì si blocca ogni riforma. Mi dice lei, se dovesse applicare la solution, come si chiama il vostro gruppo, cosa farebbe? Io ne avrei una che suggerisco agli ascoltatori, ma non penso sia così praticabile, così informatica. Prego. No, dunque, intanto volevo lanciare un messaggio rassicurante, nel senso che in altre situazioni analoghe o che erano analoghe nel mondo le soluzioni si sono trovate, quindi il percorso del miglioramento è un percorso fattibile, si sa bene che cosa bisogna fare, questo è un elemento intanto importantissimo. Ci sono due cose che vanno fatte immediatamente e parallelamente: da una parte bisogna capire come si spendono i soldi, chi compra e che spende i soldi, nei confronti di che cosa, per comprare che cosa, e dall'altra parte bisogna mettere sotto controllo i processi di spesa. Allora, nel gergo italiano i processi di spesa sono i bandi di gara pubblici. Allora, voi o forse gli ascoltatori o non tutti gli ascoltatori sanno che in Italia ci sono più di 30.000 stazioni appaltanti pubbliche. 30.000 soggetti, quindi, che possono fare un appalto, una gara d'appalto. No, qui io parlo di organizzazioni, sì, che possono soggetti fare una gara d'appalto. Certo. Poi all'interno ci possono essere ovviamente più persone. 30.000 centri di spesa, più di 30.000 centri di spesa. Allora, una delle emergenze principali è di mettere sotto controllo i processi di spesa di questi 30.000 organizzazioni. Allora, dall'altra parte bisogna invece, lavorando sullo storico e avendo a disposizione i giusti elementi numerici, fare le considerazioni sulla spesa passata. Però vedete, ascoltatori, ragionare sul passato vuol dire ragionare su cose accadute. Noi dobbiamo ragionare su cose che potrebbero accadere, perché ormai le cose accadute riguardano il passato. Dunque, noi stiamo facendo questa esperienza, forse la più importante in assoluto, ma non è l'unica, con il governo inglese. Stiamo lavorando con loro dal 2003 e la cosa interessante è che dal 2003 sono cambiate le compagini politiche che gestiscono lo Stato, addirittura sono cambiate in modo radicale, ma rispetto a questo progetto di razionalizzazione della spesa c'è stata una continuità assoluta. Sa come si chiama, Melzi, questo? Si chiama senso dello Stato, si a chiama, casa mia. Si chiama senso dello Stato, cioè che cambia governo, laburista, conservatore, ma tu l'idea che non puoi sprecare i soldi del cittadino per la sede nuova, per la sede faraonica, per le consulenze degli amici e quant'altro, è un'idea che è trasversale al centro-destra e al centro-sinistra. Esattamente, questo è un aspetto interessante. Però voglio interessante, anche, voglio la differenza anche lanciare, culturale mica da poco. Voglio anche lanciare un messaggio positivo, sì, molto positivo. Il nostro paese si trova davanti, secondo me, a una grandissima opportunità che è rappresentata dall'agenda digitale. L'agenda digitale può voler dire obbligare queste 30.000 stazioni appaltanti pubbliche, per esempio, ad utilizzare strumentazioni elettroniche per gestire i processi di appalto, il che vorrebbe dire, per una cabina di regia autorizzata, avere il presidio sui processi di spesa. Questo è un elemento fondamentale, è un elemento che attraverso la vostra radio io vorrei suggerire a coloro che sono i titolari di questo progetto. Ne abbiamo parlato anche da Cernobbio con Francesco Caio, che ha il compito di essere ministro digitale per il governo. Però mi dica una cosa in una battuta, Melzi: ci sono 30.000 stazioni appaltanti, cioè 30.000 centri che possono bandire una gara d'appalto. perché siamo un paese molto diverso, perché ogni piccolo centro vuol dire un piccolo potere quando tu hai l'appalto? Guardi, questa diciamo articolazione, questa diffusione diciamo dei centri di spesa non è una unicità del nostro paese. L'elemento chiave è mettere sotto controllo i centri di spesa, cioè la cosa importante non è averne 30 o averne 5.000, ma averli che dialoghino tra di loro e che siano controllabili e soprattutto che siano controllati, questo è evidente, no? Ma questa è la grande opportunità che il progetto Agenda Digitale potrà portare a questo paese, quindi io sono sostanzialmente molto positivo. Dico solo un'altra cosa e aggiungo, sì. Ho sentito più volte parlare del tema dei costi standard. Sì. Ma se pensiamo a come viene calcolato il costo standard, noi indirettamente stiamo accettando un compromesso un pochino al ribasso. Sì, no? Ho già capito cosa vuole dire. Cioè, se la sacca di plasma costa 1 euro in Val d'Aosta, ne costa 16, dati veri, 16 volte tanto in Reggio Calabria, noi diciamo che il costo standard è 8. No, e deve, invece il punto di riferimento deve essere 1. Lo so, c'è qualcuno che fa meglio. Ma questo è importantissimo, perché se noi ragioniamo in termini di benchmark e mettiamo come riferimento le prassi migliori, noi avviamo questo paese davvero su un processo virtuoso, davvero su un processo di efficienza. Allora, su questo io adesso ho il GR, poi voglio sentire anche Gianni Trovati, poi occuparmi di Borsa, Monte dei Paschi e spread. Però, voglio far risentire, perché un minuto ce l'ho, un'intervista di Steno Marcegaglia, oggi scomparso, creatore e fondatore del gruppo Marcegaglia, a 83 anni, che raccontava come lavorava lui, così mettiamo assieme il paese di un certo tipo e il paese dell'altro tipo, e forse questo ha contribuito anche alla creazione del successo dell'Italia di quegli anni. Mi ricordo che andavo in bicicletta a Mantova e a mezzogiorno, ora la scuola era mattino e pomeriggio, anziché andare a ristorante, mangiavo, come dicevo io, pane e panchina. Mi portavo da casa un panino e d'estate, quando c'era caldo, ma ero sulle panchine, quando c'era freddo mangiavo, restavo a scuola mentre gli altri facevano la ricreazione dall'una alle tre, io stavo lì e mi mangiavo il panino. Ma non ho mai invidiato nessuno, perché ero consapevole che prima o poi avrei sfondato, mi sarei dato da fare. Ero un ambizioso, era uno che io ho sempre creduto che sarei diventato qualcuno. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcuni mi dicono: lei ripete troppe volte l'esempio della sacca di plasma. Cambierò esempio, siamo sul tema dei costi delle regioni. Mi dispiace, non mollo la presa. Gianni Trovati, alla luce di quello che diceva il direttore di Bravo Solution, 30.000 centri appaltanti in Italia, non è un problema solo di numeri, ma del fatto che tra di loro non dialoghino e soprattutto non ci sia un sistema digitale per verificare quanto spende un centro appaltante, magari per la stessa fotocopiatrice che compra un altro alla metà o al doppio. Beh, voi avete lavorato come Sole 24 Ore su dei casi eclatanti proprio sui livelli decisionali. Sì, perché il punto è che appunto tutti fanno tutto e nessuno controlla niente. Allora io prendo, diciamo, l'invito a ragionare in termini positivi, ad abbandonare per un attimo il tono polemico che ci caratterizza, il tono di denuncia, dico, lanciamo una proposta: degli alberi in Italia si occupi un livello di governo solo. Gli alberi, il taglio degli alberi? No, la vigilanza sulle foreste, sugli alberi, eccetera. Perché in Italia si occupano di questo tema 7 livelli di governo, che sono lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, il bacino imbrifero montano, gli enti parco e i consorzi. 7 sono tanti. Mezza Sardegna è bruciata quest'anno, per cui mentre questi 7 livelli di governo si occupavano degli alberi, gli alberi bruciavano. Allora facciamo una proposta che se ne occupino, dico io, le regioni, magari con una supervisione dello Stato e basta. Più. Sì, però poi chiudiamo anche tutti gli uffici in cui c'è qualcuno pagato per occuparsi degli alberi, perché sennò o riallochiamo questi dipendenti. Esattamente, perché senza una riorganizzazione della macchina pubblica, qualsiasi spending review è destinata ad andare a sbattere, perché il costo strutturale è quello dato dalla organizzazione. La organizzazione organizzazione è data da una riforma pasticciata che è stata fatta nel 2001, ci ricordiamo, perché c'era un governo di centrosinistra che aveva bisogno di conquistare, diciamo così, consensi federalisti, ma poi i successivi governi di centrodestra si sono ben guardati dal rimettere mano a questa cosa, che ha fatto una serie di pasticci nella divisione delle competenze, per cui per esempio nelle competenze concorrenti fra Stato e Regione ai regioni entrano anche le grandi reti di trasporto, le reti di comunicazione, parti di politica estera, il commercio con l'estero, per cui appunto si citavano le regioni a Bruxelles, ma è questa riforma pasticciata che dà alle regioni una serie di competenze che sono tipiche anche negli stati federali. La politica estera lato senso la fa tutta lo Stato centrale. E ci mancherebbe. Noi le grandi reti di trasporto le gestisce e le decide lo Stato centrale. Invece noi abbiamo sovrapposto i livelli di governo, creando una foresta infinita di enti intermedi, agenzie, consorzi, appunto i bacini imbriferi montani, le autorità d'ambito e così via, che si dividono una torta che è sempre uguale, cioè le competenze, le cose da fare sono le stesse in Italia, in Germania, in Francia, non cambiano, però questa torta alimenta sempre più soggetti e quindi deve crescere per seguire questa dinamica. E da lì i costi che ricordavamo, più 50% quasi dal 2001 al 2011 il costo complessivo per le spese correnti delle regioni passate da 100 a 151 miliardi, con appunto spese per il personale cresciute del 31%, degli organi istituzionali del 51% e via così. Melzi, per concludere, lei si occupa, come dice il nome della sua società, Bravo Solution, delle soluzioni anche informatiche soprattutto, e avete fatto appunto la spending review per il governo britannico ma anche per gli Emirati Arabi e Messico. Le posso però fare una domanda non da vergine, ma in realtà più che del supporto digitale, il problema non è del supporto politico, cioè della volontà politica? Sì, ovviamente c'è questo aspetto che è un aspetto fondamentale, però ripeto anche qui, giusto per guardarla, per vedere il bicchiere mezzo pieno, noi sappiamo che c'è questo progetto che dicevo prima di agenda digitale, sappiamo che da parte di alcuni ministri, fra i quali il Ministro dell'Economia e il Primo Ministro stesso, c'è l'intenzione di avviare un gruppo di lavoro su questo tema. Io l'unico messaggio che vorrei trasmettere a coloro che decidono per queste iniziative è che un gruppo di lavoro non è sufficiente se non ha gli strumenti per poter operare. Cioè, qui non si tratta più di scrivere provvedimenti, qua si tratta di passare all'azione, e passare all'azione vuol dire dedicarsi all'analisi e dedicarsi al controllo. Le esperienze di altri paesi dicono che questa è l'unica strada percorribile, perché badi bene, noi facendo questo lavoro anche in altri paesi scopriamo delle cose molto strane, no? Per esempio, adesso mi vengono in mente alcuni degli esempi, per esempio in un paese abbiamo scoperto che alcune fatture erano state pagate due volte. E vi garantisco che non stiamo parlando di un paese del terzo mondo, e quindi è presumibile che anche in Italia possano succedere questi errori, parlo di errori. Altre situazioni del tipo, per esempio, che la spesa pubblica è concentrata su pochissimi fornitori e molte aziende non hanno mai avuto nella loro storia accesso ai bandi pubblici. Allora, cose di questo tipo, evidenze così importanti, le abbiamo riscontrate anche in altri paesi, ma la differenza sostanziale è che in quei paesi noi abbiamo individuato la volontà di far emergere queste cose. Nel nostro paese questo è quello che manca. Forse c'è una classe dirigente che è responsabile di quello che che è accaduto e che non ha nessuna intenzione di far emergere questi problemi. Lei mi sorprende, Mezzi, perché io avevo avuto questa idea che non fosse solo la classe politica in senso stretto, ma ripeto, anche tutti i capi dipartimento, i dirigenti, così, che stanno benissimo in questa situazione. Gianni, per concludere? Sì, appunto, la controprova di quest'ultima affermazione, sulle 30.000 stazioni appaltanti che venivano citate prima, la legge prevede un monitoraggio informatico per dire, appunto, quello che avete appaltato l'avete anche realizzato contro le incompiute. Tra le incompiute c'è il monitoraggio informatico, perché un decreto di agosto l'ha fatto slittare al 2014 perché nessuno ha inviato i dati. capisci Melzi, lei ha voglia di essere ottimista, poi questi le centrali appaltanti non inviano i dati e slitta il controllo informatico. Dopodiché sono d'accordo con lei, anche perché come lei già ci ha detto una volta, attenzione, perché se tu non hai un controllo e una verifica, tu rischi di tagliare un anno del 20% un costo e poi negli anni successivi di vedetelo riappioppare, perché nessuno va a controllare e i costi risalgono, per cui diventa un'operazione da fuoco fatuo. Grazie, noi comunque restiamo, perché il compito nostro, molti scrivono, cosa sperate di ottenere? Il compito nostro è denunciare e avere delle proposte, mica siamo la classe politica e mica possiamo individuare uno per uno i dirigenti che bloccano ogni tentativo di riforma, ma sappiamo che ci sono e sono anche numerosi. Grazie a Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solutions, e grazie anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Allora, la borsa oggi è slittata e non di poco, ma vi spiego anche perché. Il caso vero oggi si chiama Monte dei Paschi, meno 4,81% e sarà un approfondimento apposito. La borsa di Milano ha guadagnato lo 0,50%, vi dovete accontentare della mia cronaca, del mio aggiornamento, mentre Parigi ha fatto più 1,90, Francoforte più 2, Londra più 0,80, Nasdaq più 0,40%, Dow Jones più 1,90%. Bene, anche sui dati che abbiamo ricordato all'inizio, la produzione industriale cinese e i consumi in Cina, bene Salvatore Ferragamo più 4%, bene anche Pirelli più 3,46%, Intesa San Paolo più 2,40%, Enel più 2,20%, Fondiaria più 2%, Tenaris più 1,80%, Autogrill più 1,5%, Campari più 1,5%, Ansaldo più 1,1%, Unicredit più 1,1%, Eni più 0,50%. Male invece, oltre a Monte dei Paschi, di cui parleremo tra un attimo, Fiat Industrial meno 2,47%, Popolare Emilia Romagna meno 2%, Diasorin meno 1,80%, Enel Green Power meno 1,70%, Mediobanca meno 1,5%, Saipem meno 1%, Telecom meno 0,80%, come il Banco Popolare. E su Fiat Industrial pesa il giudizio di UBS, ha portato a vendere sul titolo, e si sgonfia anche il dossier Fiat dopo l'imbalzo di ieri per l'assenza di Marchionne e di John Elkann al salone dell'auto di Francoforte. Monte dei Paschi, dicevo, meno 4,81%, che è successo, ha confermato il commissario europeo Almunia da Cernobbio, l'abbiamo ieri ascoltato anche in audio, che se Monte dei Paschi vuole ricevere i 4 miliardi di Monti Bond, cioè dello Stato italiano, deve fare un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo, che è pari praticamente alla capitalizzazione attuale del Monte dei Paschi. È un esborso mica da ridere, anche perché i soldi non li metterà certo la Fondazione Monte dei Paschi e andranno ricercati in altro modo, ma e quindi è fisiologico che il titolo cali. Quello che a me ha lasciato un po' più perplesso è vedere che Bruxelles parla direttamente con una banca italiana, anche se i soldi gli danno gli italiani e non gli danno gli europei, e chiede, senza passare per il governo, senza mediazione, senza niente, chiede direttamente alla banca in questione, il Monte dei Paschi, di fare un aumento di capitale. Non mi sembra che questo sia avvenuto nei casi, per esempio, di Commerzbank in Germania, aiutata pesantemente dal governo tedesco, di Royal Bank of Scotland e Lloyds in Gran Bretagna, ma nemmeno nel caso di Dexia, il gruppo franco-belga aiutato pesantemente dal governo francese e dal governo belga, o del gruppo olandese ING. E allora il sospetto che siamo trattati un po' così, come uno stato commissariato, viene, ma immagino che sia solo un sospetto malizioso. Chiedo quanta malizia c'è al vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Commissariati? Sì, no, certamente la parola è suggestiva e oggetto poi di, diciamo così, diventa di dibattito sulla perdita di sovranità italiana, che, come ricordiamo, non comincia col Monte dei Paschi ma va dal 2011, quando sostanzialmente l'Europa ci ha detto: o fate le riforme o altrimenti non potete pensare sul nostro aiuto. Paradossalmente è un po' quello che sta avvenendo sul Monte. L'Unione Europea che cosa dice? Volete che gli aiuti di Stato arrivino a Siena senza diventare aiuti di Stato? Appunto, che gli aiuti arrivino a Siena senza diventare aiuti di Stato? Bene, il Monte multe, faccia la sua parte, ricapitalizzi. Perché questo avviene? Questo per farlo capire bene al nostro ascoltatore. Avviene perché l'Italia ha sbagliato, probabilmente a suo tempo, a non fare come la Spagna e a negoziare come governo un pacchetto di aiuti finanziari alle banche che poi sono stati gestiti direttamente dal governo spagnolo. Non avendo fatto questo noi, cioè abbiamo tenuto duro dicendo no, ce la faremo da soli, ce la faremo da soli, ce la faremo da soli. Morale, nel momento in cui una delle nostre banche, la quarta banca italiana, ha rischiato di andare a gamba all'aria, abbiamo lasciato la contrattazione direttamente sull'Europa, perché una volta che si chiedono i monti bond per evitare l'aiuto di Stato bisogna interviene negoziare Bruxelles. Le condizioni. E tu fai un esempio molto importante, perché c'è un'altra banca salvata questa volta sì dagli europei, non dai singoli contribuenti del paese, ed è Bankia, colosso bancario spagnolo, raggruppa tutte le casse di risparmio spagnole in estrema difficoltà, diciamo quasi fallite, per i mutui che hanno concesso in un mercato immobiliare che era in bolla. La faccio breve: quando la Spagna, Alessandro, ha capito che Bankia andava salvata, non ha fatto un aumento di capitale diretto, non ha fatto i Monti Bond, non ha fatto i Monti Bond. Chiamiamoli i Rajoy Bond, i Rajoy Bond. Non ha fatto, diciamo così, non ha fatto ricorso a quella forma di sostegno pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni. E ecco, abbiamo fatto noi. Lì è stato probabilmente l'errore più grande, quello di voler far vedere che nonostante tutto eravamo in grado di gestire la situazione. Fatto sta che adesso ci accorgiamo che se dovesse esserci un'altra crisi bancaria, e stiamo vedendo in questo momento quanto le banche regionali italiane, alcune banche, guardate il caso di Carige, perché sembra che sia molto esposta la Cassa di Genova, allora, al di là dell'inchiesta procura molto esposta sui derivati, altri molti bond, è il contribuente italiano che deve pagare. Certamente non è che se l'Unione Europea dai soldi, sono soldi a fondo perduto, perché poi sono previsti anche dei piani di rimborso comunque che ricadono sempre sul paese, però avremmo potuto gestire la situazione Monte dei Paschi con una maggiore tranquillità, perché avremmo chiesto direttamente un plafond che copriva il monte ed eventuali altre crisi, vedi quello che hanno fatto gli spagnoli. Certamente non saremmo stati qua, e basta guardare i prezzi di borsa delle banche spagnole per accorgersi che il rafforzamento patrimoniale dettato dall'Europa ha fatto risalire le quotazioni anche di quelle banche che erano sull'orlo dell'azzeramento del capitale. E quindi avessimo chiesto aiuto all'Europa, avremo adesso maggiore flessibilità nel ricapitalizzare le banche italiane, e il mercato ne prenderebbe anche atto. Non abbiamo fatto così per un orgoglio, errore di Monti, non ho nessun problema a dirlo, per un orgoglio evidentemente. Ma così guarda, o anche Bastiano, forse perché pensavamo che se non... mi permetti posso anche aggiungere questo: c'è stata una linea forse sbagliata che ha preso l'Italia fin dal crack Lehman, quello di dire le nostre banche sono le più solide del mondo. Il Tremonti che diceva le nostre banche non parlano inglese. Bravo. Ecco, allora, tutto quel fumo, quella cortina fumogena che abbiamo alzato per dire che eravamo più bravi degli altri, probabilmente è diventato un boomerang poi. Anche senza probabilmente, perché adesso il Monte dei Paschi si trova a dialogare direttamente con Bruxelles senza nessuna possibilità di dialogare con lo Stato italiano, perché Bruxelles dice: vuoi 4 miliardi perché non siano aiuti di Stato, aumenti il capitale 2 miliardi e mezzo, hai 15 mesi di tempo, auguri, perché trovare 2 miliardi e mezzo per il Monte dei Paschi in questo momento su una banca che ne capitalizza in borsa 2 miliardi e mezzo è un'impresa ardua. Comunque guarda, io penso questo, che dobbiamo un po' smettere di usare questa storia della perdita di sovranità quando ci fa comodo, perché ci sono dei momenti in cui l'Europa ci dà sostegno, guarda sugli aiuti che ci sono stati, per esempio al settore agricolo, anche alla siderurgia, e dopo, quando si tratta invece di dare il conto, se abbiamo perso la sovranità, reclamiamo. A proposito della Cassa dei risparmi di Genova, al di là dell'inchiesta sulla gestione, attenzione, perché la relazione della Banca d'Italia avrebbe portato alla luce anche un'esposizione della Cassa dei risparmi di Genova sui derivati, sempre i derivati, che potrebbe portare a perdite fino a 7 miliardi di euro per una banca che ne ha 30 di miliardi. Tra le controparti, attenzione, compare di nuovo Deutsche Bank, quella dell'operazione Santorini con Monte dei Paschi, perché poi qua non è che i tedeschi. Secondo la Banca d'Italia, la posizione verso Deutsche Bank è di circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, quella della Carige, ed è quella che mostra le maggiori criticità. Staremo a vedere. Visto che però tu parlavi di Spagna, vorrei concludere su un altro tema di oggi che ricordavo in apertura, lo spread. Ora, no, il nostro spread non è a livelli preoccupanti oggi, ma quello che è successo è che ci ha superato la Spagna, ossia la Spagna ha uno spread di un punto più basso rispetto a quello dell'Italia. Siccome al di là di quel mese drammatico di novembre 2011, quando poi si dimise Berlusconi con lo spread a 540, con i rendimenti dei BTP a un anno che rendevano più di quelli a 10 anni, non era mai successo, cioè noi da sempre siamo stati ritenuti più affidabili, o diciamo quasi sempre per essere precisi, A cosa si deve questo superamento della Spagna sull'Italia, seppur di un punto? Avevamo almeno 100 punti di differenza qualche mese fa, poi ridotti a 40. Dunque, poi ricordiamo 30. Le tappe, ma novembre 2011, crisi italiana, esplosione dei tassi di interesse, non parliamo solo di spread, ma erano i tassi che volavano oltre il 7%, quindi non era questione soltanto dello spread sul Bund. Maggio 2012, l'Italia poi riesce a riagganciare la Spagna, la supera, dopo la crisi, ricordiamoci, interviene Draghi, la politica di sostegno. Che cosa ha spinto il mercato a riapprezzare meglio la Spagna di noi? Ma è abbastanza semplice, intanto c'è una percezione che guarda avanti. Il mercato analizza quello che sta facendo la Spagna in questo momento, la cura con le sulle banche, il credito che comincia a tornare all'economia. Attenzione, aver risanato le banche prima di noi significa aver messo in condizione il sistema di ridare prestiti. Questo sta aiutando la Spagna. Il fatto, e ripeto, questo non è indifferente, che sui giornali, sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, non si parla di Spagna, ma si parla d'Italia. Noi siamo riusciti a conquistare le prime pagine di tutto il mondo per la nostra incapacità di garantire una stabilità di governo per più di qualche mese, e questo lo stiamo pagando. E sempre ritorniamo. Vabbè, dire che sono le 18:28, che ringrazio Alessandro Praterotti. Ogni altro commento a questa puntata è superfluo, che ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore, che auguro a tutti voi in ascolto una buona serata, che domani torneremo alle 17 ancora per parlare della spesa della pubblica amministrazione e per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.